falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Non è la prima volta che parliamo di calcio, però avrete notato che noi parliamo sì di calcio, ma solo di gente veramente speciale, calciatori e più raramente anche allenatori. E oggi parliamo di un'icona del calcio inglese e dei suoi ragazzi, un gruppo di giocatori che sono veramente la storia di questo sport e della affermazione di quelli che il calcio l'hanno inventato, cioè gli inglesi. Oggi parliamo di Matt Busby e dei suoi Busby Babies. Pleasant game, play in the sun, play in the rain, and the team that gets me excited, Manchester United. Ci perdoneranno i fratelli Gallagher, che sono tifosi del Manchester City, ma questa è una canzone scritta in onore del Manchester United e dei Busby Baby. Prima di raccontare chi erano questi giocatori, dobbiamo capire perché Matt Busby è ricordato come il più grande allenatore che l'Inghilterra abbia avuto. Comunque uno dei più grandi, perché avevo già detto questa frase per Brian Clough, ma sono questi due i grandi. Partiamo dal principio. Maggio 1909, Matt Busby nasce a Belsh Hill, vicino a Glasgow, in terra scozzese. Il padre muore durante la Grande Guerra quando lui ha solo 6 anni, e così il suo destino sembra avviato verso la miniera, che con umiltà affronta a 14 anni. Però lui, Matt, ha anche una grande passione per il calcio, e a 18 anni inizia a giocare. Dove? Nel Manchester City, per una paga di 5 sterline a settimana. Inizia come terzino, poi diventa mediano, indossa stabilmente per oltre 200 partite la maglia numero 4, che era quella veramente del mediano di spinta, quello che correva, menava e faceva il lavoro sporco. Quando nel 1939 viene ceduto a Liverpool, conosce il giovane Bob Paisley, che negli anni successivi diventa lo storico allenatore del Liverpool e il grande amico di Busby. Now here are Jimmy McLaughlin, Busby and Bray. Siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. La carriera di Matt Busby, come tante altre carriere, si interrompe, e lui almeno ha avuto una soddisfazione, quella di vincere una Coppa d'Inghilterra nel 1934. Ha avuto una carriera più che dignitosa, ma quello che Busby ha imparato sul campo è l'organizzazione di gioco e soprattutto la convinzione che l'entusiasmo è il miglior carburante per fare correre bene una squadra. Lo ha imparato durante le ore infinite trascorse a giocare per strada con i suoi amici, tra le case di mattoni sporchi, di quella polvere di carbone che copre tutto, anche il sogno di costruire un futuro diverso. Durante i 6 anni di guerra Busby fa da allenatore alla squadra delle forze armate, quindi torna a casa con un'esperienza tale che gli viene offerto di prenderne le redini dell'altra squadra di Manchester, stavolta il Manchester United. Guiding United is ex-star Matt Busby, keeping a player's eye on the first team workout. Come abbiamo già spiegato quando abbiamo parlato della coppia Clough-Taylor, nel calcio inglese il manager è sempre affiancato da un coach che si occupa dell'allenamento e dell'acquisto di nuovi talenti. Il coach di Busby è John Murphy, che rimarrà con lui per tutta la carriera. La squadra è completamente da ricostruire, come l'Old Trafford, il mitico stadio che dopo la guerra è stato bombardato. Lo United è costretto a giocare nello stadio del City, ma alla fine della guerra non è certo lo spirito di rivalità a prevalere. Bisogna ricominciare a vivere e ricostruire il calcio inglese. Busby e Murphy hanno idee ben chiare: costruire un gruppo affiatato e investire sui giovani. Dal 46 in poi il Manchester è sempre nei primi posti della classifica, ma è nel 48 che arriva il primo trofeo, la Coppa d'Inghilterra, che la squadra riceve direttamente dalle mani di Giorgio VI, il re balbuziente, diciamo. You have no time to love me anymore. Since fame and fortune knocked on our door, I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. Nel 1952 il Manchester di Matt Busby conquista il primo scudetto. E lui è un manager attento, preciso, non solo per le tattiche di gioco, ma per fare quadrare i conti della società. Con Murphy e Busby ha seguito una tattica molto precisa, che è una vera e propria rivoluzione: rimpiazzare i giocatori più anziani con ragazzini di 16 e 17 anni, che è una cosa impensabile in quell'epoca. Magari per andare in miniera bastavano 14 anni, ma per essere un giocatore da prima serie inglese ce ne volevano molti di più. La battaglia principale è stata quella di far accettare al club che entrassero a far parte della squadra dei ragazzini prelevati dalle scuole e convincere quei ragazzini ad essere una parte importante della squadra stessa. Questo era un fattore molto importante. Così accanto ai giocatori più anziani arrivano Foulkes, Jones, Whelan, Peg e soprattutto Duncan Edwards, che all'epoca dell'esordio ha solo 17 anni. La stampa è sconcertata, nessuno può credere che questa squadra abbia la forza, il carattere di scontrarsi con le altre squadre molto più forti dal punto di vista fisico. Comincia a contestare le scelte di Busby, sempre con l'ironia inglese, arriva a coniare un termine che diventa leggendario per definire i 7 ragazzini sotto i 18 anni che scendono in campo da titolari con la maglia rossa del Manchester United. Johnny Berry beats his man, Taylor moves in, and Taylor finds the net. Blackpool defense trying the offside game. Berry going through with it by himself. Cross it comes and Palms made a perfect hit. Le chiamano i Busby Babies, i ragazzini di Busby, e questa stessa stampa però si dovrà ricredere, perché in soli 4 anni le scelte di Busby saranno vincenti, la squadra comincerà a raccogliere i frutti del lavoro. Nel 57 il Manchester vince il campionato e va in finale di Coppa d'Inghilterra perdendo con l'Aston Villa. Di quella squadra è entrato a far parte anche un ragazzino di Hastington, che nel 53, quando ha solo 16 anni, viene notato da Matt Busby ed è subito reclutato. Busby lo vuole come riserva di Duncan Edwards e vuole che impari tutto da lui. Bene, il suo nome è Bobby Charlton, il capitano della nazionale inglese che nel 66 solleverà la Coppa del Mondo. Pensavo che non ci fossero in giro molti giocatori più forti di me, finché non arrivai all'Old Trafford e Jimmy Murphy mi disse: Bobby, voglio che ti alleni insieme a Duncan Edwards e impari tutto da lui. Che giocatore! Sapeva muoversi velocemente, giocava col destro, col sinistro. Sembrava impossibile che uno fosse così bravo, ma lo era, lo era. Con questa squadra arriviamo al campionato 57-58, che è quello decisivo per Busby, quello in cui raccogliere i frutti di tutti gli anni precedenti. Campionato, Coppa d'Inghilterra, Coppa dei Campioni, a quei tempi non è stata ancora coniata la parola triplete, però si può definire come una impresa eccezionale, unica al mondo, che può consacrare il nome di Matt Busby e dei suoi Busby Babies nella storia del calcio mondiale. Ma una tragedia fermerà tutta questa storia. Il falco e il gabbiano. Manchester United di Matt Busby ha vinto il campionato del 57, può partecipare alla Coppa dei Campioni, e allora solo chi vinceva il campionato andava in Coppa dei Campioni, e loro però stanno portando avanti una battaglia personale contro la Lega inglese, che si oppone alla partecipazione della squadra alle competizioni europee perché non le considera all'altezza delle squadre inglesi. Gli inglesi non partecipavano alle competizioni internazionali, arrivarono ai mondiali solo nel 50, peraltro perdendo con gli Stati Uniti, ma non ritenevano fosse giusto confrontarsi con le altre squadre europee. Busby è un innovatore anche in questo, crede fondamentale per migliorare il calcio inglese confrontarsi con altre scuole calcistiche. Ricordiamo che in quel periodo c'era l'Ungheria che giocava a calcio, la Germania, insomma c'erano scuole calcistiche molto importanti, per non parlare del Sud America. Comunque il clima è infuocato, il Manchester decide di partecipare alla Coppa dei Campioni malgrado un ostruzionismo della Lega inglese che non sposta le partite di calendario del Manchester neanche di un giorno, costringe la squadra a veloci e rocamboleschi ritorni in patria quasi sempre con voli charter. C'era sempre una grande pressione e malgrado avessimo successo dovevamo giocare le partite molto vicine, senza contare i problemi per tornare in tempo, come quella volta a Bilbao quando ci chiesero di tirare giù dalle ali dell'aereo a colpi di scopa i pezzi di ghiaccio, e noi lo facemmo. Ice off the wings, which we did. Esattamente come i calciatori di oggi, eh? Comunque nel 56 il Manchester era stato eliminato dal Real Madrid in semifinale, il Real Madrid di Stefano Puskas, quello che vince 5 Coppe dei Campioni consecutive. L'anno dopo però potrebbe essere quello buono, così pensa Matt Busby, parte per Belgrado, deve affrontare la Stella Rossa, la Lega inglese intanto non concede al Manchester di giocare la partita di campionato qualche giorno dopo, la squadra si è affidata all'ennesimo charter, lo stesso Busby ha insistito per prendere un aereo e rientrare il più velocemente possibile. Gli aerei sono a elica, ci vuole molto più tempo per volare da un capo all'altro dell'Europa, spesso bisogna anche fermarsi per fare rifornimento. Non so perché, ma eravamo tutti convinti che a Belgrado, nell'Europa dell'Est, non ci fosse abbastanza cibo da mangiare, e quindi ognuno di noi aveva portato le valigie piene di cioccolata e altra roba da mangiare, per poi accorgerci che invece lì il cibo era buonissimo. Beh, anche il fatto di avere molti bagagli in questa trasferta rende l'aereo più pesante e questo avrà le tragiche conseguenze di cui stiamo per parlare. E intanto il Manchester, che aveva vinto 2-1 all'andata, va a Belgrado, pareggia 3-3 con la Stella Rossa e si qualifica per la semifinale. Quest'anno sembra veramente la volta buona, però non hanno fatto i conti col destino i ragazzi di Matt Busby. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. A bordo 44 persone, bisogna fermarsi a Monaco di Baviera per fare rifornimento prima di arrivare in Inghilterra. La squadra scende dall'aereo, quando risale si mette in posa come spesso faceva sulla scaletta dell'aereo per la foto ricordo. Quella foto rimane l'ultima immagine della squadra. Sta nevicando, la pista è coperta di ghiaccio, il vento rende difficoltoso il decollo. I bagagli pesano nella stiva, l'aereo per due volte tenta di decollare, poi interrompe la procedura. Al terzo tentativo l'aereo prende velocità, si solleva, rimbalza un paio di volte, continua la sua corsa sulla pista. Quando la pista finisce, l'aereo urta un piccolo edificio e si gira, spezzandosi in due. L'aereo si spezzò lungo una linea che passava esattamente sotto i miei piedi. Io svenni e quando mi svegliai mi ritrovai seduto al mio posto, ma davanti a me non c'era più il resto dell'aereo. Mi alzai e mi misi a camminare, e fu lì che mi accorsi di non avere più le scarpe. Questo è il ricordo di Bill Foulkes, che si ritrova con il proprio compagno di poltrona seduto in mezzo alla neve. L'aereo si è spezzato in due, delle 44 persone perderanno la vita in 23. Di queste, 8 giocatori del Manchester United, tra cui il talento Duncan Edwards. È una città intera che piange, e i ragazzi sono diventati figli di tutti a Manchester. La tragedia colpisce nel profondo l'intera nazione e la Superga d'Inghilterra. Quando mi risvegliai in ospedale, vidi che c'erano molti altri accanto a me, e quando mi dissero quel che era successo agli altri, volevo morire. Volevo morire perché mi sentivo responsabile e non potevo sopportare un peso così. Poi, nelle settimane successive, pensando e ripensando a quel che era successo, mi venne di nuovo la voglia di tornare a casa. Matt Busby è rimasto ferito alle gambe. Durante i primi giorni d'ospedale, per due volte gli viene impartita l'estrema unzione, ma il vecchio leone dimostra di avere la pelle dura, recupera, e questa terribile prova a cui è stato sottoposto rappresenta per lui una rinascita. È un colpo d'ala che lo spinge a inseguire un solo scopo nella sua vita: onorare il ricordo dei suoi ragazzi morti a Monaco con nuove vittorie, e soprattutto portare in Inghilterra la Coppa dei Campioni, anzi portarla a Manchester da quei ragazzi che non ci sono più, per la squadra, per Manchester e per lui e per i suoi Busby Babies. Vedremo se ce la farà. Stiamo ripercorrendo la carriera di Matt Busby, che non è solo un allenatore, è il simbolo di una rinascita che parte dalle ceneri di un aereo nel febbraio del 1958. A Monaco, l'aereo che riporta a casa i suoi ragazzi dopo essersi guadagnati l'accesso alle semifinali di Coppa dei Campioni a Belgrado, cade in fase di decollo. 8 giocatori della squadra muoiono. Matt Busby rimane gravemente ferito, al punto che tornerà in patria solo 2 mesi dopo. Welcome home, Matt Busby, and here's wishing you a speedy and complete recovery to your old fighting form. Durante la sua convalescenza, Busby è tormentato dal rimorso di essere stato lui la causa del disastro, per avere voluto a tutti i costi prendere quell'aereo, ma nessuno ha mai pensato che le responsabilità fossero sue, semmai la federazione inglese, che continuava a costringere il Manchester a andare e venire senza spostare nessuna gara di campionato, come oggi si fa abitualmente. Intanto Jimmy Murphy ha preso in mano la squadra e in pochi giorni è riuscito a ricostruirla per continuare il campionato, anche grazie a una generosità tipicamente british, per la quale ogni squadra del campionato ha ceduto a prezzo simbolico almeno un giocatore. Nel frattempo ripartiamo dai superstiti, dal portiere Harry Gregg, da Bill Foulkes e da un giovanissimo Bobby Charlton, che lentamente prenderà il posto nel cuore dei tifosi di Duncan Edwards, che in quell'incidente ha lasciato la vita. Quante volte ho pensato di lasciare dopo il mio ritorno, quando mi sono ritrovato ad affrontare i ricordi. Ma proprio questi ricordi mi hanno tenuto occupato e hanno fatto crescere in me l'ossessione che il Manchester United dovesse ritornare grande. Deve ricostruire la squadra da zero. 8 sono morti, e anche tra i sopravvissuti molti non recupereranno più fisicamente lo stato di forma, oppure mentalmente non saranno più in grado di essere i giocatori che facevano parte di quella grande squadra. Per Matt Busby riportare la squadra in alto dove l'aveva lasciata diventa un'ossessione, si trasforma in un impeto che smuove qualsiasi attività che possa portare giovamento alla ricostruzione. Per esempio, ha un grande rapporto con la stampa, corretto correttezza reciproca e anche in occasione di alcune partite negative dei suoi non si permette mai di ridicolizzare i giocatori o di sottolineare la scarsa competitività del nuovo Manchester United, di altri Busby Babies. Intanto entra lui nell'amministrazione della società, crea una situazione per cui il Manchester diventa una vera e propria famiglia, un gruppo di uomini con il solo scopo di onorare le vittime della tragedia di Monaco. Nel 1963 il Manchester torna a vincere e lo fa partendo dalla Coppa d'Inghilterra. Ci sono nuovi giocatori che sono dei veri e propri campioni. Tra loro un ragazzo di 17 anni, nord irlandese, cresce nel vivaio del Manchester e si capisce subito che sarà un grandissimo campione. E prima o poi bisognerà parlarne diffusamente qui al Falco e il Gabbiano. Avete capito che sto alludendo a George Best. Ci vogliono 7 anni di lavoro duro e paziente per ricostruire un gruppo capace di rivelarsi imbattibile. Alla fine la pazienza di Matt Busby viene premiata. Nel 65 il Manchester è di nuovo in cima alla classifica, conquista lo scudetto. Nel 65 i Busby Babies vanno in Coppa dei Campioni e escono in semifinale. L'anno dopo non vincono lo scudetto, riescono a vincere il campionato di nuovo nel 66-67 e hanno un'altra possibilità per vincere quella Coppa dei Campioni che nessuna squadra inglese ha ancora vinto e che per la città di Manchester rappresenta un modo per scacciare i fantasmi di una enorme tragedia che ha colpito tutta la città e onorare veramente i ragazzi che sono rimasti nella pista di Monaco. Busby è ormai un grande personaggio, addirittura ha l'onore di essere citato in questa canzone Dig It dei Beatles. E intanto sono passati 10 anni dalla tragedia di Monaco e Matt Busby ha coltivato la sua ossessione per 10 anni. È stato paziente, il suo desiderio di riscatto del calcio inglese passa da un lavoro sui giovani giocatori, passa dalle istituzioni del calcio e dalla stampa, e per dimostrare che vincere la Coppa dei Campioni non è un obiettivo solo sportivo, solo per le statistiche, ma è anche una missione, e la famiglia di Matt Busby è grande quanto una città intera, questo ormai lo sanno tutti. Se c'è una squadra inglese che deve vincere la Coppa dei Campioni, questa sarà il Manchester. Ho sempre cercato di fare la cosa giusta, di fare la cosa migliore per la squadra e credo in cuor mio di esserci riuscito. Il cammino è agevole fino alle semifinali, qua però c'è il Real Madrid, è una rivincita della semifinale di 2 anni prima, quando i madrileni erano passati. A Manchester ha segnato George Best e quindi si parte dall'1-0. Qua però ci sono 125.000 tifosi spagnoli che fanno un tifo infernale. Alla fine del primo tempo il Real vince 3-1. Le paure sembrano tornare. Busby e la sua squadra sono sotto. Allora lui negli spogliatoi ricorda la strada che hanno fatto in questi 10 anni e ricorda per quale motivo fossero lì. Non dovevano essere impauriti dal pubblico spagnolo, perché loro avevano un'intera città, anzi un'intera nazione, a spingerli verso la finale insieme a quegli 8 compagni che da qualche parte li stanno guardando. E allora c'è un'incredibile rimonta che porta il risultato finale sul 3-3. Il Manchester United va in finale. We've now played 20 seconds over time and ages and they've done it. Manchester United have gone into the final of the European Cup and Bobby Charlton's fallen right over, he's lying flat. I'm not quite sure if he's fainted or what, or whether he's crying. but Bowie Charlton is stretched out on the pitch. 29 maggio 1968, stadio Wembley di Londra, arbitra Concetto Lobello. L'altra squadra è il Benfica. Il Benfica ha già vinto due Coppe dei Campioni, è la squadra di Eusebio, di Torres, di Simões, di Augusto, di Colugna. Ancora una volta Matt Busby tenta l'assalto alla Coppa che nessuna squadra ha mai vinto. Qua ci vuole un colpo d'ala per coinvolgere tutta la squadra, anche perché Busby sa che questo ciclo di campioni si avvia alla conclusione e è convinto che non ci saranno altre occasioni per giocarsi una finale. Tra l'altro lo United ha appena perso il campionato contro i cugini del Manchester City. Questo significa che l'anno successivo non ci sarebbe nessuna Coppa dei Campioni da disputare in caso di sconfitta della finale. So, as we start extra time, Charlton scored for Manchester United 53 minutes, Grasser for Benfica 11 minutes from the end. We now are going to the first period of 15 minutes. The second time in the history of the European Cup that there has been extra time. I tempi regolamentari finiscono 1-1, l'esito della finale è incerto e il Manchester deve, vuole vincere quella partita, deve portare a casa la Coppa e deve entrare nella storia. E nei tempi supplementari affiora la stanchezza, le squadre si allungano, cominciano a scoprirsi, osano di più. Dopo 97 minuti di gioco c'è un lungo rinvio di Stepney, il portiere. Best prende la palla, si invola verso la porta avversaria, scarta il portiere e segna. Non passa neanche un minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kidd di testa e sono 3-1. Il Benfica è in confusione, in due minuti il Manchester fa quello che non era riuscito a fare nei primi 90, fa esplodere il suo gioco d'attacco, le magie dei suoi campioni e il cuore di un'intera città. Manca solo il gol di Bobby Charlton, arriva anche quello, 4-1. Wembley esplode, la Coppa va a Manchester. We don't even look at Georgie Best, we look at the referee. I tifosi del Benfica rimangono in piedi a applaudire il Manchester e Bobby Charlton che alza al cielo la Coppa dei Campioni. Matt Busby ce l'ha fatta 10 anni dopo il tremendo incidente di Monaco. È la prima volta che una squadra inglese porta via la Coppa con le orecchie. È una vittoria che è un simbolo, è un omaggio alla memoria dei Busby Babies, come ricorda Bobby Charlton. Non dico che scacciò via i fantasmi, ma per noi fu come trovare il sacro Graal. Avevamo ripetuto così tante volte che volevamo vincere, che alla fine, quando ci siamo riusciti, 10 anni dopo, nessuno si è chiesto il perché. Era così che doveva andare. E basta. At last, Matt Busby, the maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer. His wonderful 11 men were all princes. This victory didn't belong only to Manchester United supporters. This was a win for Great Britain. È quella che Bobby Charlton ha definito the Holy Grail, il Santo Graal, è una vittoria per una nazione intera e Busby viene chiamato the King of Soccer, il re del calcio. L'Inghilterra, che per anni ha evitato tutte le competizioni straniere e che poi però quando è arrivata a giocarle ha sempre perso, oggi è orgogliosa di essere campione dei campioni, la miglior squadra d'Europa. Per Busby questo traguardo ha il significato di una redenzione, è la fine della convivenza forzata con i suoi ricordi e con il rimorso di aver voluto a tutti i costi prendere quel maledetto aereo per rientrare da Belgrado. That was my greatest night. Quella fu la notte più bella della mia vita, non c'è dubbio. e non c'è dubbio che l'abbia desiderata tante e tante volte. È stato il culmine di tutte le mie ambizioni e le mie idee. Avevo detto che mi sarei ritirato al momento giusto e penso che quel momento sia arrivato. I feel it's the right time now. Nel gennaio del 69 Matt Busby annuncia il suo ritiro perché non ha più niente da dimostrare, ha appagato la sua santa ossessione, ha allenato il Manchester United per un quarto di secolo, ha vissuto il momento tragico dell'incidente, è caduto, si è rialzato e ha combattuto tutta la sua vita per portare una coppa nella città della tragedia. Oggi vicino allo stadio c'è una strada che porta il suo nome, Sir Matt Busby Way, e come spesso accade in Inghilterra c'è anche una statua che lo ritrae sorridente con un pallone in mano, lui che per i suoi ragazzi è stato un allenatore e soprattutto un padre, lui che ha cresciuto un gruppo di ragazzini, li ha fatti diventare uomini. Oggi mi piace concludere con una frase pronunciata da Bobby Charlton, il capitano del Manchester campione d'Europa e della nazionale campione del mondo. Qualcuno ha detto che noi calciatori siamo schiavi del calcio stesso. Beh, se questa è la schiavitù, condannatemi a vita. E questa è una storia straordinaria di rivincita, riscatto e di una missione da compiere, quella di onorare la memoria di 8 ragazzi che hanno perso la vita prima di diventare dei campioni. È la storia di Matt Busby, dei suoi ragazzi e del suo mitico Manchester United. E noi vi aspettiamo con altre storie, segnalatecele via mail al falcoelgabbiano@radio24.it oppure interagite con me sul sito di Radio 24, Facebook, Twitter, insomma se volete mi trovate. Un saluto, a domani.